Grazie Fabio, vogliamo fare un applauso ancora, questo ministro meraviglioso. Bello confessare che noi abbiamo la vittoria in Cristo Gesù. Non è solo un bel canto, è una confessione che noi facciamo, una confessione che ha a che fare con una verità. E sapete, Gesù dice che la verità ci rende liberi. Quando noi abbiamo la verità, noi siamo liberi. Quando noi abbiamo la verità, il diavolo non può nulla nei nostri confronti. Ed è vero che noi abbiamo già vinto in Cristo Gesù. Se Lui ha vinto, noi abbiamo vinto con Lui, perché noi siamo oggi nascosti in Lui e Lui dimora in noi. Quindi puoi girarti alla persona a fianco e dire: lo sai che tu hai vinto, hai già vinto, eh? Anche in fondo avete già vinto, avete già vinto, siete vittoriosi. Grazie anche al servizio di accoglienza. Stasera avevamo una squadra speciale, mottolesi che sono venuti apposta, parte della squadra pastorale, meraviglioso. Voi avete vinto alla grande. Bene, il tema di quest'anno è... Lo rifaccio così mi fate sentire ancora più, no, pastore orgoglioso di questa chiesa. Il tema di quest'anno è... Ci piace. Di gloria in gloria. Sta scritto dietro, eh? Questi della regia, veramente, vi aiutano sempre. Di gloria in gloria. Dio ci chiama a vivere una vita che va di gloria in gloria. Se vuoi, puoi sostituire la parola gloria, successo. Dio ti chiama a una condizione di successo superiore, oppure una condizione di bellezza. Hai notato che diventi sempre più bello con Gesù? Non è opera della dieta, non è opera del mascara, non è opera degli ottimi parrucchieri che abbiamo in mezzo a noi, facciamo un momento pubblicità, ma è opera di Dio. Lui ci rende sempre più belli, e noi, contemplando Cristo, c'è scritto nella parola di Dio, siamo trasformati nella sua stessa immagine. E se tu cominci a somigliare sempre di più a Gesù, effettivamente diventi sempre più bello e vivi questa trasformazione che ti permette un passaggio dalla gloria in cui ti trovi ad una gloria successiva, che è anche superiore. Abbiamo visto domenica scorsa, e domenica scorsa nello specifico abbiamo parlato di abbracciare la gloria della... Rifacciamo anche questo, dai. Domenica scorsa abbiamo parlato di abbracciare la gloria della... Grazie regia, di nuovo, eh? Grazie, grazie di cuore. Ora, questo era il titolo del messaggio di domenica scorsa, sottotitolo era Lascia il biberon. Vi ricordate? Lascia il biberon, non rimanere bambino, non continuare a cibarti di latte, c'è cibo solido per te. Vuoi vivere un passaggio dalla gloria precedente a quella successiva, da un livello di gloria a quello superiore che Dio ha in mente per te? Allora è importante che tu accetti la sfida di crescere, di diventare uomo e donna matura. Abbraccia la gloria della maturità. Lascia il biberon. Dillo alla persona che ti sta a fianco: lascia sto biberon, lascialo, c'è una bistecca per te, impugna forchetta e coltello, taglia e mangia, che è molto meglio una bistecca, vero? Il titolo del messaggio di questa sera è La gloria delle battaglie, sottotitolo Lascia il pannolone. Ci piace? L'abbiamo già citato la scorsa domenica, un'ispirazione dall'alto. Se è vero, come è vero, che noi dobbiamo lasciare il biberon, è vero altrettanto che dobbiamo lasciare il pannolone. Dobbiamo smetterla di vedere la battaglia come qualcosa che non ci appartiene, dalla quale noi dobbiamo fuggire via. Perché la battaglia è il mezzo che Dio ci offre per passare dalla gloria nella quale ci troviamo ad una gloria superiore. Abbraccia la gloria delle battaglie. E questa sera, proprio perché la scorsa settimana abbiamo parlato della gloria della maturità che passa dal cibarci della parola di Dio, dallo scavare a fondo, abbiamo preso l'immagine dei grattacieli che hanno delle fondamenta molto profonde, più profonde sono, più quei palazzi si possono elevare in alto, così è vero per la nostra vita. E quindi noi dobbiamo scavare nella parola. Abbiamo parlato del fatto che la dobbiamo leggere, che la dobbiamo meditare, ma che la dobbiamo anche... E qui la regia non vi può dare una mano. La dobbiamo leggere, la dobbiamo meditare e la dobbiamo anche memorizzare. Vi ricordate che Gesù ha memorizzato la parola? E quindi stasera vi insegnerò e impareremo tutti insieme un verso della Bibbia a memoria. Un verso del Vecchio Testamento a memoria, che dice: il Signore che mi liberò dalla zampa del leone e dalla zampa dell'orso mi libererà anche dalla mano di questo filisteo. Volete impararlo con me questo verso? So che sembra una cosa che non ci serve, sapere che lui ci libera dalla zampa del leone, dell'orso, del filisteo, tutti i termini che magari non ci appartengono, ma stasera capirete che questo verso è fondamentale per la tua vita e se lo memorizzi al momento opportuno lo Spirito Santo te lo ricorderà e ti permetterà di essere un combattente che vince. Quindi ripetiamo insieme, prossima slide, eliminiamo qualche parola. Il Signore che mi liberò dalla zampa e dalla zampa mi libererà anche... Bene, vi vedo preparati. Togliamo altre parole. Il Signore che mi liberò. Dalla mano di questo filisteo. Lo state ripetendo tutti? Non è che facciamo come a scuola, vi ricordate a scuola, no? Che il professore chiedeva, faceva la domanda e poi tutti insieme in corale si rispondeva. Però c'era un gruppo di persone che sapeva come rispondere, un altro gruppo di persone che mormorava, no? Io ero in quel gruppo di persone, no? Qual è la formula? Bene, togliamo qualche altra parola. Il Signore e dalla zampa dell'orso mi libererà. Lo state ripetendo tutti? Carmine, lo stai ripetendo? Potete togliere il verso, per piacere? Un affronto maggiore per Carmine, vediamo. È il Signore che mi ha liberato dalla zampa del... mi liberò dalla zampa del leone e dalla zampa dell'orso, mi libererà dalla mano di questo filisteo. Fantastico, bravo! Allora, togliamo altre parole e lo ripetiamo ancora insieme. Il... dalla zampa dell'orso. Togliamo tutte le parole. Il Signore... ancora una volta, il Signore che mi liberò dalla... dalla zampa mi libererà anche solo Cinzia. Il Signore che mi liberò dalla zampa dell'orso, dalla zampa del leone, mi libererà anche dalla mano di questo filisteo. Fantastico, bravissima. Il Signore è liberatore e il Signore ci libera tanto dalla zampa dell'orso quanto quella del leone, tanto quanto dalla mano di questo filisteo, del filisteo. Naturalmente sappiamo dove ci troviamo. Ci troviamo in 1 Samuele al capitolo 17, la famosissima battaglia di Golia e Davide. E questa è una battaglia incredibile perché i due popoli erano schierati in battaglia su due monti e c'era una vallata in mezzo a loro e si pensa che proprio per la natura geografica abbiano scelto di adottare quella che era una strategia comune in battaglia, cioè un campione di un esercito si sfidava contro un altro campione dell'esercito opposto. E quindi Golia, che era un uomo possente, era un gigante, aveva un'altezza che andava all'incirca dai 2 metri e mezzo, pensate un po', no? 2 metri e mezzo, 3 metri. Guardate me. Ecco, aggiungete un altro me sopra e arriviamo a Golia, ok? Davide invece era un ragazzino che non era armato, un ragazzino che era impreparato, infatti tutti lo hanno scoraggiato, ho fatto pure rima. E perché lo hanno scoraggiato? Lo hanno scoraggiato perché questo era un guerriero, Golia era un guerriero fin dalla sua giovinezza. E pensate un po', lui aveva una lancia che era qualcosa di incredibile. Pensate che solo la punta pesava 6 kg, la corazza era di 50 kg. Pensate che lui aveva un giavellotto di bronzo, aveva l'elmo di bronzo, era armato fino ai denti, aveva pure una spada. Quindi immaginate, aveva una lancia, una spada, un giavellotto dietro, non aveva le mani libere per impugnare lo scudo. Infatti c'era un altro guerriero che lo precedeva con uno scudo, e davanti a questo guerriero Davide si schiera in battaglia e lo affronta. E io voglio dirti questa sera che se tu vuoi passare da un livello di gloria a quello successivo, devi accettare la sfida della battaglia. E questa sfida tu l'accetti e la devi vivere in una maniera molto significativa e molto in linea con quello che è il verso che abbiamo appena citato. Perché il verso che abbiamo memorizzato è realmente la forza che ha permesso a Davide di vincere questa battaglia. Davide dice, punto 1 di questo messaggio, che il Signore che mi liberò, passato, il Signore che mi liberò, mi libererà. C'è una condizione fondamentale per vincere le battaglie nella nostra vita, ed è affrontarle con il... Se tu affronti le battaglie con il Signore, la battaglia ha un esito completamente diverso. L'arma, la forza di Davide non era nelle armi che indossava, perché aveva solo una fionda, non era nella statura fisica perché era un ragazzino, non era nella tattica e nella strategia di guerra che ha adottato. La forza di Davide era la sua fede in Dio, ce lo dobbiamo ricordare. Questo è l'insegnamento principale che noi traiamo da questa storia. E quindi il mio incoraggiamento a ciascuno di noi è: nelle battaglie che affronti, affrontale ognuna di esse con il Signore che mi liberò. Il Signore che mi liberò, mi libererà. È il Signore che fa la differenza. Sapete, noi tutti affrontiamo delle battaglie, e talvolta le battaglie le vinciamo anche da soli. Ma ogni battaglia che noi vinciamo da soli alimenta il nostro ego, il nostro orgoglio. Ogni battaglia che invece noi vinciamo con Dio alimenta la nostra fede. E quando l'orgoglio cresce nella nostra vita, inevitabilmente ci porta alla caduta. La Bibbia dice che l'orgoglio precede la caduta, l'umiltà invece precede la gloria. Se tu vuoi passare di gloria in gloria, devi essere umile abbastanza da dipendere da Dio in ogni singola battaglia di ogni giorno, piccola o grande che sia. Dio ti invita a vivere le battaglie con Lui, ed è questo che fa la differenza. Quante battaglie puoi attribuire a Dio nella tua vita? Più battaglie tu riesci ad attribuire a Dio, più vittorie tu riesci ad attribuire a Dio nella tua vita, più la tua fede è forte da poter accettare sfide successive. Avete visto l'elenco che fa Davide? Il Signore che mi liberò dalla zampa del leone e poi dalla zampa dell'orso. Battaglie in successione. Mi libererà dalla mano di questo filisteo. Di gloria in gloria, di battaglia in battaglia. E posso ricordarti questa sera che tu vivi una vita che è fatta di battaglie. Devi poter abbracciare la battaglia, perché la battaglia viene e verrà nella tua vita, e come la vivi farà la differenza nella vita tua e nella vita delle persone che ti osservano e che riesci a influenzare. Un segreto per vivere la battaglia come l'ha vissuta Davide, e questo è il punto 2 di questo messaggio, è armarti di buona memoria. Un attimo di pausa. Pensateci un attimo. Se Davide ha potuto affrontare questa sfida, questa battaglia con Golia, è perché si è ricordato di battaglie precedenti, ha confessato la vittoria di battaglie precedenti, delle quali conosceva e ricordava tutti i dettagli. Lui ricordava la zampa del leone, lui ricordava la zampa dell'orso, e nella zampa del leone, nella zampa dell'orso c'era la forza in lui, nella memoria di quelle vittorie, di affrontare nuove vittorie. Se vuoi essere forte come credente e vincere nuove battaglie, non puoi essere smemorato. E noi, ahimè, siamo tanto smemorati, fratelli e sorelle. Troppo facilmente dimentichiamo le battaglie che abbiamo già vinto con il Signore. E questo è un limite nella nostra vita, perché nel momento in cui non ricordi, ti ritrovi davanti alla battaglia nella stessa condizione in cui ti ritrovavi davanti alla battaglia precedente. Invece, se ricordi, ogni nuova battaglia è un livello superiore di fede, di gloria, di possibilità. Perché? Perché confessi a te e ad altri anche, come ha fatto Davide: io ho vinto già questa cosa, e io ho vinto già quest'altra cosa. Il Signore che mi guarì da quella malattia, il Signore che mi diede quel lavoro, il Signore che mi fece incontrare mia moglie, il Signore che mi diede vittoria nella chiesa, il Signore, e citando e confessando e avendo buona memoria, tu hai forza per combattere la nuova battaglia. Io ho problemi di memoria. Devo fare una confessione, io ho problemi di memoria, ed è per questo che ho un diario nella mia scrivania nel quale segno le vittorie che Dio mi dà, le parole che Lui mi affida, le cose che Lui mi fa vivere che sono vittoriose, e puntualmente vado a risfogliare quel diario per ricordarmi che cosa Dio ha fatto 2 anni fa, 3 anni fa. Perché Dio è lo stesso ieri, oggi e in eterno, e se ti ha fatto vincere delle battaglie anche 20 anni fa, Lui non è cambiato, ha la stessa forza di poterti far vincere le battaglie di oggi e di domani, anche quando queste saranno più grandi. Non essere un credente smemorato. Se vuoi passare di gloria in gloria, armati di buona memoria. La forza del credente sta nella buona memoria, ed è per questo che noi adoriamo. Quando tu adori e ringrazi il Signore, non fai altro che rinfrescare la tua memoria. Quando stasera tu dici: Signore, tu hai vinto, tu ricordi a te stesso quando ha vinto, come ha vinto, in che occasione ha vinto, quale situazione nella tua vita hai visto la sua mano, in quale situazione hai visto la sua mano e hai trionfato. È importante che noi, esattamente come Davide, abbiamo la forza, la memoria di ricordarci quando e come Dio ha vinto. Non essere smemorato. Stasera, quando torni a casa, comincia tu un diario e comincia ad elencare tutte le volte che hai visto Dio trionfare nella tua famiglia, tutte le volte che hai visto Dio trionfare nella tua vita, e ricorda a te stesso, ringrazia quel Dio perché Lui non è cambiato. E nelle battaglie che hai oggi, Lui ti dà la forza di vincere ancora. Amen. Il terzo punto per vivere una vita che va di gloria in gloria è combattere. È combattere. L'ho già detto prima, ma lo voglio ribadire. È combattere. Non tirarsi indietro. È combattere la battaglia di Davide. Combattere per ciò che ti appartiene. Davide ha combattuto per ciò che gli apparteneva. Le battaglie del leone e dell'orso erano battaglie per attacchi che lui aveva subito. Vogliamo leggere insieme come lui stesso descrive queste situazioni, perché è curioso leggere come lui, prima di affrontare Golia, giustifica la sua forza nella memoria e nel ricordo delle battaglie già vinte in precedenza. E lui dice al versetto 33, rispondendo a Saul, anzi nel versetto 33 leggiamo cosa Saul dice e poi la risposta di Davide. Saul disse a Davide: tu non puoi andare a batterti con quel filisteo, poiché tu non sei che un ragazzo ed egli è un guerriero fin dalla sua giovinezza. Davide rispose a Saul, ascoltate ora: il tuo servo pascolava il gregge di suo padre e talvolta veniva un leone o un orso a portar via una pecora del gregge, una pecora del gregge. Quando io ho letto questa storia, ho riletto queste parole, il Signore mi ha illuminato la parolina una pecora del gregge, una pecora. E mi sono immaginato, no, io davanti a questo gregge di centinaia di pecore, che vedo arrivare un leone che si porta via una pecora del gregge. Sai cosa? Si può rinunciare a una pecora del gregge davanti a un leone. Non facciamo che si aggiungano vittime a vittime. Lasciamolo andare in pace con quella pecora del gregge. Fammene stare qui buono buono. Davide non si è tirato indietro, ma tutto ciò che gli apparteneva lo ha protetto e ha combattuto. Infatti aggiunge: allora gli correvo dietro. Sta parlando del leone, sta parlando dell'orso. Abbiamo un po' un'idea di quella che è la scena. Forse dovremmo vedere qualche documentario in più sui leoni, sugli orsi. In Canada, quando sono stato, ho visto un orso. Mi hanno detto: Mirko, se ti incroci con un orso, fatti quanto più alto possibile. Alza le tue mani perché così avrà paura. Io l'ho guardato negli occhi, l'ho detto: io, mi hai visto quanto sono alto? Non ho speranza, me la darò a gambe. Davide dice: allora gli correvo dietro, lo colpivo, gli strappavo dalle fauci la preda, la mia pecora, sta dicendo, la mia pecora. E se quello mi si rivoltava contro, lo afferravo per le mascelle, lo ferivo e l'ammazzavo. Sì, il tuo servo ha ucciso il leone e l'orso. Questo incirconciso filisteo sarà come uno di quelli, perché ha coperto di vergogna le schiere del Dio vivente. Io voglio incoraggiarti stasera a combattere le battaglie nella tua vita, a non tirarti indietro. Il diavolo viene per rubare, ammazzare e distruggere. Lui è un ladro, lui è un bugiardo, lui è un distruttore, lui è un ladro. Fratelli e sorelle, se mi stai ascoltando, io voglio metterti in guardia: lui verrà per rubare, e se non lo ha già fatto lo farà, perché è un ladro professionista, e lui viene per rubarti pace nella vita. Lui viene per rubare e distruggere un'armonia nel tuo matrimonio. Lui viene per rubare il tempo a te prezioso. Lui viene per rubare perché è un ladro. Ed è tempo che noi ci svegliamo e ci rendiamo conto che ogni giorno è una battaglia contro il tempo, perché il tempo è poco, fratelli e sorelle. È una battaglia contro la pace. Non è paradossale, ma noi dobbiamo combattere per la pace della nostra vita, sapete? Noi dobbiamo prendere autorità contro colui che è il nostro nemico e ci vuole togliere pace, e noi troviamo pace alla presenza di Dio, ma è una battaglia che tu devi scegliere di fare. Se rimani impietrito, se rimani passivo a questo attacco del diavolo, lui verrà e si prenderà la prima pecora e forse tornerà per prendersene un'altra. E poi un'altra ancora. Io sono testimonianza vivente di come i miei genitori hanno combattuto per me. Io sono grato a loro perché quando ho fatto scelte sbagliate, quando ho intrapreso percorsi negativi nella mia vita, amicizie sbagliate, quando ero fuori nei locali a divertirmi con ogni sorta di divertimento sbagliato che questo mondo ha da offrire, io so che loro erano a casa a pregare per me. Lotta per i tuoi figli, lotta per la tua famiglia, lotta per ciò che ti appartiene. Sai qual è la lotta migliore che tu puoi fare? È la preghiera. E sai chi ce lo insegna? Forse è quello che è il mio personaggio biblico preferito. Non è molto conosciuto e ha un nome strano. Si chiama Epafra e in Colossesi al capitolo 4, versetto 12, noi leggiamo poche parole di quest'uomo che dicono che Epafra, che è dei vostri ed è servo di Cristo Gesù, vi saluta. E guardate ora cosa scrive l'apostolo Paolo. Egli lotta. Epafra è un guerriero. Epafra è un Davide. Epafra è quel pastore che ha cura di ciò che gli appartiene, di ciò che Dio gli ha affidato, e lotta. E come lotta? Lotta sempre per voi nelle sue preghiere. Sottovalutiamo la potenza della preghiera. Troppo spesso sopravvalutiamo le nostre azioni, sopravvalutiamo le nostre parole, sopravvalutiamo il nostro intervento. Ma il nostro combattimento non è contro sangue e carne, è un combattimento spirituale che si affronta con l'arma della preghiera. Epafra ha scelto di lottare. Io ti invito a scegliere di lottare per la tua famiglia, per il tuo matrimonio, per la tua pace, per il tuo tempo. Il diavolo viene per rubarti tempo, per metterti ogni sorta di distrazione, sabotare il destino di vita che Dio ha per te. Riprenditi il tuo tempo, riprenditi il tuo tempo. Riprenditi quel tempo prezioso che non è davanti a un computer, non è davanti a un sito internet, non è davanti a un film. Quello è tempo perso, va bene per uno svago, ma non farti rubare eccessivamente il tuo tempo. Fallo in una maniera misurata, dedica il tuo tempo a Dio, alla sua presenza, in preghiera, lotta e conquista in ginocchio. Amen? Ci piace questo? Scegli tu di combattere. Io questa sera voglio pregare per te. Voglio pregare per tutti coloro che si trovano in un combattimento. Voglio pregare perché la vittoria ti appartiene. E non so se ti stai trovando davanti a un orso o davanti a un leone, ma ciò che ti appartiene e che Dio ti ha affidato, Lui ti dà la forza di custodirlo. E quindi io voglio pregare per tutti coloro che si ritrovano in questo punto, e poi andrò avanti con un ultimo punto di questo messaggio. Riconoscono in questo momento che stanno vivendo una battaglia nella famiglia, nel matrimonio, nel tempo, in cose che ti stanno attaccando. Vedete, questa battaglia, la battaglia dell'orso e del leone, era una battaglia di attacco. Davide non l'ha scelta, l'ha subita. E il diavolo viene e attacca, fa incursione nelle nostre vite. E se tu questa sera ti ritrovi a riconoscere che il diavolo ha fatto incursione nella tua vita, in una qualsiasi area, io ti chiedo di alzarti in piedi in questo momento e voglio pregare per te, perché la vittoria ti appartiene. Senza timidezza, senza paura, siamo in un posto sicuro e possiamo pregare gli uni per gli altri. Forza, alzati ora. Padre, io prego nel nome di Cristo Gesù, e insieme come Chiesa noi preghiamo nel potente nome di Cristo Gesù, che la zampa del leone, la zampa dell'orso non possa avere la meglio nella vita dei nostri fratelli e delle nostre sorelle. Per ognuna di queste persone che è in piedi, io prego la vittoria di Davide, io prego la forza di Davide di correre, di combattere, di affrontare, di non rimanere fermi, di non rimanere a guardare. Io prego che tutto ciò che appartiene a questi tuoi figli possa essere da te protetto e da loro riscattato nel nome di Cristo Gesù. Io prego la tua vittoria sul leone e sull'orso in ognuna di queste persone, nel nome potente di Cristo Gesù. Ripeti con me: nel nome di Gesù, amen. confessalo per la tua vita, per l'area della tua vita di combattimento, e ripeti ancora una volta: nel nome di Cristo Gesù, amen. Ancora una volta: nel nome di Cristo Gesù, amen, amen. Possiamo accomodarci, perché io voglio parlarvi di qualcosa di prezioso che noi leggiamo in questa storia. Vedete, la battaglia del leone e dell'orso erano delle battaglie che Davide ha affrontato da pastore. Aveva questa responsabilità dal padre, e quale pastore del gregge ha combattuto quelle battaglie, non sapendo che ognuna di quelle battaglie lo stava preparando ad essere un combattente quale re. Noi leggiamo nella storia che Davide è stato poi unto re, e dopo che è stato unto re, lui si è trovato davanti alla battaglia di Golia. Lui è andato lì solo per portare del cibo ai suoi fratelli. Lui non era un guerriero, non era un soldato, non era stato reclutato, si è ritrovato lì per caso. È ritrovato lì per caso, ha visto questo gigante che minacciava il popolo, ha visto tutti questi soldati che erano ben armati e avrebbero potuto affrontare il gigante, perché Dio poteva essere con loro tanto quanto lo è stato con lui poi. Ma erano fermi, impietriti per 40 giorni. Questo gigante minacciava il popolo e nessuno aveva il coraggio di affrontarlo. Ma Davide ha accettato una sfida. Nel momento in cui ha sentito che questa battaglia non si stava sbloccando, ha accettato la sfida di affrontare la battaglia di un re. E la battaglia di un re non è la battaglia che ti piomba addosso come incursione in maniera inaspettata e sotto attacco. La battaglia del re è una battaglia che tu scegli di fare. È Davide che ha scelto di fare quello che ha fatto. Anzi, tutti lo hanno scoraggiato da quest'idea. Questa battaglia è una battaglia che letteralmente ha a che fare con il togliersi il pannolone ed essere maturi. Davide ha pensato: io ho vinto per la forza di Dio contro il leone, contro l'orso. Erano già battaglie impossibili. Ciò che era impossibile allora continua ad essere impossibile oggi. Perché non accettare la sfida? Questa è una battaglia particolare, perché è una battaglia di intraprendenza. È quel tipo di battaglia che tu scegli di fare quando nessuno ti sta chiedendo di farla. È una battaglia che tu scegli di fare perché sei mosso dallo Spirito Santo. E Dio, io credo che questa sera sta chiamando delle persone ad essere dei combattenti intraprendenti. Dio ti sta chiamando ad accettare la sfida di nuove battaglie che partono da una tua scelta. Forse finora hai fatto battaglie a favore della Chiesa, a favore del suo regno, a favore degli altri, perché qualcuno è venuto a chiedertelo. Forse qualcuno ti ha nominato un leader. Forse qualcuno ti ha esposto a una responsabilità. E non c'è niente di sbagliato in questo. È molto bello che tu hai afferrato e accettato questa cosa quando qualcuno te l'ha proposto. Ma c'è un livello di gloria maggiore che Dio ha in mente per te. E io so benissimo che cosa comporta questa battaglia, perché se oggi mi trovo qui è perché io ho scelto di entrare in questa dimensione di battaglia. È una battaglia che io scelgo di fare e che tu puoi scegliere di fare a favore dell'avanzamento del regno di Dio. È una battaglia che ti porta in ginocchio a pregare e a fare una preghiera molto pericolosa e dire: Signore, chi vuoi tu che io combatti? Cosa vuoi tu che io faccia? Questa intraprendenza è un'intraprendenza che ti porta a vivere tutta la fede e tutto il tuo percorso da cristiano in una maniera completamente diversa. Tu non vieni qui in chiesa per ricevere e per permettere ad altri di vincere le tue battaglie, come magari io sto facendo in questo momento incoraggiandoti, ma tu vieni in chiesa perché tu vuoi combattere. Tu vieni in chiesa perché sei lì in allerta come Davide per vedere dove sono i giganti, perché io sono disposto a combatterli a favore dei miei fratelli e delle mie sorelle. Questa battaglia è una battaglia di intraprendenza, e il Signore sta chiamando guerrieri nella nostra chiesa ad essere intraprendenti, a non aspettare che qualcuno, il pastore, un leader, qualche ministro, un profeta di turno ti venga a dire che cosa puoi fare e devi fare, ma è la battaglia che ti porta a dire: io voglio l'avanzamento del regno di Dio, io amo ciò che ama Dio, io amo la chiesa e voglio vederla avanzare di gloria in gloria. E ti poni in una dimensione di combattente dove sei tu a scegliere le battaglie a favore degli altri. L'altra caratteristica di questa battaglia, la battaglia del re, è che non è più una battaglia per le cose che ti appartengono, non è più una battaglia per le tue pecore, non è più una battaglia solo per la tua famiglia, per ciò che ti appartiene, è una battaglia altruista. È una battaglia che tu fai per gli altri, per permettere ad altri di vincere. E sapete una cosa? Se noi stasera siamo qui, tutti noi siamo qui perché qualcuno ha avuto l'intraprendenza di combattere per noi per primi. Primo fra tutti, Cristo Gesù. È Lui che ha combattuto la morte, è Lui che ha affrontato la tortura, è Lui che si è caricato dei nostri peccati, è Lui ha combattuto per noi la battaglia per darci vittoria. E nella vittoria che ora noi godiamo, ci chiama a rispondere al Suo mandato, ad amare gli altri come noi stessi. È Gesù che comanda e dice: ama il tuo prossimo come te stesso. Sapete in pratica che cosa vuol dire? Che tu ami la famiglia di un altro tanto quanto ami la tua famiglia. Tu ami poter vedere l'altro prosperare economicamente tanto quanto tu vuoi prosperare economicamente. È una battaglia che ti porta ad essere generoso, altruista e a rischiare la vita per il bene degli altri. Gesù lo ha fatto. Davide, che è immagine di Gesù, l'ha fatto prima di lui. Oggi è il tuo turno, oggi è il mio turno, di amare a tal punto il nostro prossimo, il nostro fratello, la nostra sorella, la nostra chiesa, da scegliere di morire noi stessi per il bene dell'altro. Ma non venire in chiesa per capire che cosa puoi ricevere, ma venire in chiesa per capire che cosa puoi dare. A non venire in chiesa per capire come gli altri ti possono coccolare, come possono aiutarti nelle battaglie tue, ma venire in chiesa per affrontare la battaglia per gli altri. Questa è la battaglia di persone mature, questa è la battaglia di re, e il Signore ci chiama ad essere re e sacerdoti in uno. Pietro 2:9 dice: voi siete re e sacerdoti, siete un regale sacerdozio, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato per proclamare le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre a questa meravigliosa luce. Noi siamo chiamati oggi a vincere battaglie per altri, e ci sono persone qui che stanno decidendo di andare in altre parti di questa terra, in altre parti buie del mondo, per accettare la sfida e combattere per quei popoli affinché quei popoli siano riscattati. Ma questa chiamata non è solo per alcuni, perché tutti siamo re e sacerdoti nel regno di Dio. E Lui ti chiama, te che mi stai ascoltando, a non rimanere confinato nella battaglia del pastore, a non rimanere confinato nella battaglia delle tue pecore, ma a crescere, ad armarti, a potenziarti attraverso le battaglie tue personali, per poi entrare in combattimento a favore di altri. Questa è una battaglia di altruismo, è una battaglia di amore, è una battaglia di intraprendenza, ed è anche una battaglia che nasce nel tuo cuore, perché hai a cuore le cose di Dio. Sei geloso per le cose di Dio, hai passione per le cose di Dio e sei animato da questa passione, che questa passione fa nascere in te una santa violenza. Una santa violenza che ti porta a dire: non è da sopportare questa condizione. Non è da sopportare che un mondo vive ancora nelle tenebre. Non è da sopportare che il mio vicino di casa litighi ancora con sua moglie e c'è violenza in quella casa. Non è da sopportare che c'è smarrimento e disorientamento nei miei colleghi di lavoro. Io sono la risposta e io voglio combattere la battaglia che mi è affidata. Questa è una battaglia che tu vivi nel momento in cui sei mosso dal cuore stesso di Dio. Infatti questo leggiamo nelle parole di Davide, nello stesso capitolo, al versetto 26, quando dice: chi è questo filisteo? Questo incirconciso che osa insultare le schiere del Dio vivente. Chi è che si sta permettendo di minacciare il mio fratello? Chi è che si sta permettendo di bloccare i miei fratelli soldati su una montagna, impietriti e impauriti? Questa è una battaglia di coloro che vogliono uscire dalla maggioranza, perché sentono una passione interiore, una forza interiore da voler combattere a favore del popolo, affinché tutto il popolo vinca. Chi è che osa minacciare la Chiesa di Dio? Chi è che osa mormorare? Chi è che osa dividere? Chi è che osa criticare? E non stiamo parlando di persone. Il nostro combattimento non è contro sangue e carne. Non è contro quei fratelli che mormorano, contro quei fratelli che criticano, contro quei fratelli che portano divisione. Il nostro combattimento è contro spiriti e demoni che si muovono per dividere la Chiesa, per bloccarne la crescita, per bloccarne l'avanzamento. Ed è lì che Dio ti chiama questa sera a fare una scelta e a dire: io voglio essere intraprendente. Io sto guardando a tanti di voi e riconosco nella vita di tanti di voi intraprendenza, e io amo l'intraprendenza che c'è in questa chiesa. Persone, uomini, donne, coppie che scelgono di fare la differenza quando nessuno li vede. Uomini, donne, figli di Dio che piangono per il popolo suo, per la chiesa, che lottano per situazioni irrisolte all'interno e all'esterno. Persone che hanno un bagaglio di sofferenza e di dolore perché stanno faticando a favore di un gruppo familiare, stanno faticando a favore di famiglie, stanno faticando a favore del paese nel quale vivono, penso a Mottola. Io vedo persone intraprendenti, io vedo persone altruiste, io vedo persone generose. E io vedo persone che sono mosse dal cuore di Dio. E io voglio incoraggiarti questa sera a non arrenderti nella battaglia. A non arrenderti nella battaglia, perché è per questo che vale la pena vivere. Ed è per questo che vale la pena morire su questa terra. Noi viviamo per Cristo e per noi la morte è guadagno. E io voglio concludere questo messaggio pregando ancora per chi questa sera vuole rinnovare la sua scelta, la sua decisione di essere uno che combatte non il combattimento del pastore solamente, ma sceglie questa sera di entrare in un territorio nuovo, di scendere in quella valle dove nessuno vuole scendere e combattere il combattimento del Re. Se questo è quello che senti nel tuo cuore, io voglio pregare per te e voglio pregare affinché lo Spirito Santo ti dia forza nelle battaglie quotidiane, nelle sfide quotidiane, nei tempi personali, ad alimentare fede e forza per essere sempre più influente nel suo regno e per portare sempre maggiori vittorie per Cristo. Vogliamo chiudere i nostri occhi, vogliamo abbassare il nostro capo. se tu sei quella persona che dici questa sera, sì, io voglio combattere, io voglio essere intraprendente, io voglio ascoltare la voce dello Spirito Santo e io sono disposto a fare qualsiasi cosa Lui mi chiede di fare, dalla cosa più umile, dal servizio più basso, alla cosa più rischiosa, all'avventura più nuova. Se tu sei quella persona, io ti chiedo di alzarti in piedi dove ti trovi, in tutta questa sala, e voglio pregare per te affinché Dio ti possa ungere della sua potenza, della sua autorità, della sua forza per questo combattimento. Alleluia Padre, grazie. Se sei tu quella persona, alzati ora. Ti ringrazio Padre per le tante persone che si sono alzate in questo luogo. È un appello difficile ed è una preghiera anche molto difficile per me da fare, perché so che c'è sofferenza nella battaglia, perché so che non è facile scendere in quella valle, perché so che è più sicuro ed è più comodo rimanere nella montagna con tutti gli altri. Però io ti ringrazio Spirito Santo, perché oggi come 2000 anni fa tu continui a chiamare persone che si distinguono dalla maggioranza, persone che sono disposte a mettersi davanti a tutti e a combattere a favore di molti. Padre, io voglio pregarti per questi re, per queste regine che si sono alzate in piedi. Io voglio pregare nel nome di Cristo Gesù, l'unica preghiera che è veramente necessaria per loro, che tu possa dare loro la pienezza dello Spirito Santo. Io prego in questo momento affinché tu li possa battezzare, riempire, dare forza e potenza nello Spirito Santo, con un'intimità con te diretta che permette a loro ogni giorno di intraprendere nuove battaglie con nuove prospettive, con nuovi occhi. Io prego Spirito Santo di riempire i tuoi figli. In questo momento io prego te Spirito Santo di dare forza ai tuoi figli. Io prego Spirito Santo di dare ai tuoi figli occhi per vedere battaglie e forza nelle mani e nei piedi di muoversi e andare verso quel bisogno, andare verso quel fratello, quella sorella, quella famiglia, quell'aspetto e quell'area di chiesa. Io prego Padre che questa chiesa possa moltiplicarsi e che da questa chiesa altri fuochi si possano accendere in ogni parte del mondo e in ogni parte di questa nazione. Ed è per questo che ti prego per re. Padre, facci uscire dal confine dei pastori e ti prego per re. Ti prego che tu possa mettere sogni e visioni nuove e una passione rinnovata nello Spirito Santo in ognuna di queste persone. Io ti chiedo che la battaglia possa partire da stasera, che loro possano essere intraprendenti, altruisti, che loro possano essere mossi dalla stessa passione che anima te, che loro possano andare verso i perduti, che loro possano andare verso i bisogni della Chiesa, che loro possano essere un contributo per l'avanzamento del tuo regno in tutto il mondo, Signore Gesù. Io prego che tu possa dare a loro forza di ricordare le battaglie già vinte. Io prego di dare a loro memoria della zampa del leone, della zampa dell'orso e vittoria sulla mano del Filisteo. Nel nome di Cristo Gesù prego questa preghiera. Per ognuno di loro prego per un tempo nuovo, una stagione nuova, una stagione di intimità, una stagione di preghiera, una stagione di digiuni, una stagione di ascolto, una stagione di forza nella tua presenza. Devo cominciare ora a stare alla sua presenza in una maniera nuova, in una maniera attiva. Ti chiedo di alzare le tue mani dove ti trovi. Entra alla sua presenza, perché tu hai accesso alla sua presenza. Nella sua presenza c'è forza, nella sua presenza c'è coraggio, nella sua presenza c'è visione di cose maggiori. Nella sua presenza rimani in ascolto, perché sono convinto che lo Spirito Santo in questo momento vuole parlare a te personalmente.